continuano le pressioni internazionali sulla vicenda del Darfur. Dopo un crescendo in queste ultime ore di pressione da parte degli Stati Uniti, che hanno presentato una bozza di risoluzione all'ONU che probabilmente andrà al voto prima di giovedì, e l'Unione Europea che si è accodata ieri alle richieste statunitensi che sostanzialmente minacciano sanzioni nei confronti del governo sudanese se non si impegnerà realmente il prima possibile a disarmare le milizie arabe ritenute le principali responsabili della catastrofe umanitaria in corso in Darfur. Oggi potrebbe essere la giornata delle risposte dei sudanesi. I sudanesi già nelle ultime 48 ore hanno cominciato ad alzare la voce contro le pressioni internazionali. Nei giorni scorsi ci sono state dichiarazioni abbastanza pesanti, tra cui, oltre a quella ovvia di una strumentalizzazione della crisi da parte dei paesi occidentali nei confronti del governo islamico sudanese, sottolineando questa componente, quindi la componente religiosa, e paragonando un po' il Sudan a quanto accaduto in Iraq, ci sono state dichiarazioni poi riguardo al fatto che il Darfur ormai sia entrato nell'agenda elettorale statunitense e quindi l'amministrazione attuale, ovvero quella del presidente Bush, utilizzi il Darfur per attrarre il voto dei neri. Insomma, dichiarazioni dure, dichiarazioni di un governo che ritiene di essersi già impegnato con la comunità internazionale a risolvere questa crisi e chiede solo il tempo per portare avanti le promesse fatte. Oggi, dicevo, però, potrebbe essere una giornata di ulteriori dichiarazioni sudanesi o prese di posizione anche dure nei confronti delle pressioni internazionali. Ieri il governo sudanese ha convocato gli ambasciatori di Germania e Inghilterra per esprimere il proprio disappunto, anzi è stato anche qualcosa di più del disappunto, cioè ha considerato minaccia alla sicurezza nazionale, definendole inaccettabili le dichiarazioni del capo di Stato Maggiore inglese che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a inviare 5.000 uomini in Darfur, e quelle del governo tedesco che secondo loro sosterrebbe, secondo Khartoum, sosterrebbe in qualche modo i ribelli del Darfur. Oggi è prevista una riunione di urgenza del gabinetto sudanese proprio per discutere di queste vicende e delle minacce di sanzioni da parte delle Nazioni Unite. E l'atteggiamento, l'impressione che vengano fuori documenti o comunicati molto duri, vedendo questa pressione internazionale come una violazione della sovranità nazionale. Una riunione si terrà anche al Comitato della Lega Araba, la commissione incaricata di gestire la crisi del Darfur si dovrebbe riunire oggi e anche qui si attende una presa di posizione. Insomma, è facile che anche la Lega Araba cerchi di dare una mano, in questo caso al Sudan, quantomeno in questa guerra mediatica e diplomatica che si è scatenata intorno al Darfur. A giorni ci sarà, ripeto, la votazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU di questa nuova risoluzione, una risoluzione che minaccia sanzioni contro il governo sudanese per la prima volta direttamente e forse ipotizza un intervento armato. Dico forse perché poi in realtà, nonostante alcune dichiarazioni, la faccenda non è poi così semplice. Al Consiglio di sicurezza il Sudan può contare su certe riserve russe e cinesi, ma anche di altri paesi. In tutto questo si sta muovendo in maniera silenziosa, e personalmente ritengo possa essere la chiave di svolta per questa crisi, l'Unione Africana. L'Unione Africana sta continuando a cercare di far ragionare le parti, ovvero da una parte il governo, dall'altra i ribelli, e il suo lavoro è sotterraneo finora, quindi vediamo che cosa riuscirà a fare l'Unione Africana, che sostanzialmente da una parte lo stesso Sudan e altri paesi arabi, tra cui la Libia ieri, ritengono un po' un garante di una non intromissione occidentale, dall'altra anche Nazioni Unite, Unione Europea e Stati Uniti guardano con una certa fiducia all'Unione Africana, quindi resta da capire cosa succede. È vero che ultimamente sembrano essersi indurite le posizioni dei ribelli sudanesi, che continuano a porre delle condizioni per il dialogo. Secondo alcuni si tratterebbe di una strategia. I ribelli sudanesi del Darfur non hanno le armi e i mezzi per continuare gli scontri con Janjaweed o eventualmente con Khartoum. Sperano quindi che la pressante crisi umanitaria, non so se vale la pena di ripetere le cifre, ma insomma rischia di peggiorare ulteriormente, perché ormai è cominciata la stagione delle piogge, ma ci sono 1 milione e oltre di sfollati interni, 160.000 profughi in Chad, morti a decine di migliaia, con le stime ultime, ma si tratta di stime ferme a circa 50.000 persone. Ma è soprattutto il destino degli sfollati interni che preoccupa, perché con la stagione delle piogge ormai iniziata si teme lo svilupparsi di malattie, ma soprattutto i raccolti quest'anno non daranno probabilmente frutti, quindi nei prossimi mesi si ripropone una crisi fortissima.